In questa lezione parliamo di psicologia. Per quanto odiata o rifiutata, la psicologia ha un valore immenso. Essa spiega in modo scientifico come funziona questo immenso supercomputer che abbiamo all'interno della mente, ma soprattutto come modellarlo a nostro favore. Eccoti quattro motivi per cui è indispensabile padroneggiare la psicologia. La prima area riguarda la pubblicità e il marketing. Lo sapevi che ognuno di noi è influenzato dalle parole solo per il 7%? Per il 38% dal tono, il ritmo della voce, il volume? E dal 55% per la mimica facciale e i movimenti del corpo? Alla psicologia va riconosciuto il merito di avere dimostrato tutto questo sperimentalmente e chi la conosce potrà difendersi meglio. La seconda area riguarda le relazioni, le amicizie e l'amore. Dimmi come ami e ti dirò chi sei, recita un bellissimo libro di Amir Levine. Il merito della psicologia in questo campo è di aver fornito a tutti la possibilità di conoscere i bisogni profondi legati all'amore. Vivere relazioni appaganti è veramente possibile se sai come farlo. La terza area è quella del self-help, dell'autoaiuto. Grazie alla psicologia sono disponibili decine di centinaia di esercizi e protocolli per trasformare in meglio le proprie abitudini, per essere efficaci eppure felici nella vita di tutti i giorni. La quarta area ha a che fare con la terapia del dolore. Grazie alla psicologia è possibile trovare soluzioni e sostegno per sofferenze di cui non è possibile dare neppure una spiegazione a parole. Grazie ad essa, infatti, milioni di persone ogni anno trovano dei modi nuovi per andare avanti e trovare un senso. Ok, anche per questa mini lezione è tutto. Ci vediamo fra poco nel prossimo video con il tema della creatività. Ciao!